24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua per la nostra intervista. Voglio salutare il capogruppo dei responsabili alla Camera, l'onorevole Luciano Sardelli. Buongiorno onorevole. Buongiorno a voi. Che qualcuno definisce un ossimoro, perché i responsabili che hanno bisogno di un responsabile, insomma, fa un po' sorridere, ma è così chiaramente, giusto per sorridere. Senta onorevole, oggi sui giornali c'è l'ennesima puntata di questo rimpasto di governo, pare che ci siamo, insomma, i responsabili passano alla cassa? I responsabili prendono qualche responsabilità in più, solo questo, poi non è che saranno neanche così numerose. C'è stata questa forza, questa capacità di dare continuità al governo, ci sono delle caselle da riempire, ci sono dei ministeri che non hanno neanche sottosegretari, qualcuno, e quindi, andrà a occuparsi di queste cose. Quanti? Lei ha detto non saranno quanti, perché i giornali oggi dicono, alcuni dicono 6, il Sole dice 7, qualcun altro dice 4. Sono 9 sottosegretariati. Eh no, ma quanti ne andranno a voi secondo? Ma proprio responsabili? Ma su 9 ne andranno 3-4. 3 o 4? 3 o 4. Perché pare che sia, insomma, una corsa, insomma, da Denis Verdini, che sta tenendo la lista, no? A dire, ovviamente, ognuno si gioca le proprie carte. Ma il governo è fatto di queste cose, uno fa politica per arrivare ad avere ruoli di governo e per poter rappresentare i territori, le categorie, gli interessi di cui è portatore. Questa è la politica. Quindi dice l'ambizione è legittima, cioè l'ambizione. Ma se uno che ha ambizione, di un ragazzo con ambizione, dice un ragazzo senza ambizione, come un fatto negativo. L'ambizione di governare è legittima e doverosa, altrimenti uno lascia, non fa la politica, fa altro. Dice figurarsi del politico, insomma, l'ambizione, e l'ambizione si misura in poltrone, no? Ma voi dite la poltrona è un posto dove uno si siede e non fa niente e guarda la televisione. Il governo è un posto dove uno prende un incarico e deve dimostrare di valere, di essere capace di portare avanti dei progetti e realizzare il governo della pubblica amministrazione. È un po' diverso, non so. Sì, certo. A proposito di lettura di politica, vorrei, perché di Sardelli, che abbiamo già avuto ospite in passato, si sa, è pediatra, ma lei è psicoterapeuta o pediatra? Questo non no, ho capito. Io ho fatto terapia della famiglia, ho fatto programmazione neurolinguistica, poi comunque un medico. Un medico. Un approccio. No, perché ci sono due frasi sulla quale vorrei che lei spiegasse ai nostri ascoltatori. Il politico ha diritto di mentire. Questa l'ho presa da una sua intervista. Vabbè, questo è Caporale. No, era l'Unità, credo. Il politico ha diritto di mentire. Vabbè, è vero. Pure Caporale, pure la Repubblica. Sì. Io ho detto che rispetto a certe scelte, guarda, cioè, noi possiamo parlare della politica del migliore dei mondi possibili e mentire alla gente, no? Cioè, dicendo che tutta una serie di storie e di falsità, oppure dobbiamo dire come la politica, come la realtà, che di fronte a certe situazioni, cioè, pur di raggiungere un obiettivo semmai collettivo e pubblico qualche volta, bisogna anche dire qualche bugia bianca. Si può, il politico può, cioè ha diritto, perché, ma perché? No, cioè, voglio dire, non è che può, cioè, guardi questa partita del nucleare come complicata, no? Cioè, è una partita complicatissima, il paese per competere deve anche avere una produzione di energia nucleare, la gente in questo momento è spaventata, molto spaventata. Quindi Berlusconi ha fatto bene. E quindi vorrebbe semmai continuare ad avere un livello di vita, le macchine, gli ospedali, una ricchezza straordinaria, al di sopra, molto al di sopra della ricchezza media dei cittadini del pianeta, no? E poi se non avere l'energia nucleare in casa e poi ritrovarsi. E quindi ci ha fatto bene il governo a dire, cari cittadini, adesso siete un po' disorientati, meglio che non votate. Il governo deve tener conto anche di quelle che sono le emozioni, le paure e le volontà dei cittadini. Rispetto a questa cosa ho detto fermiamoci un attimo, no? Cioè, ma non è detto che ci fermerà poi Berlusconi, che dice tutto fino in fondo, è detto per ora ci fermiamo, poi valuteremo fra 1 o 2 anni, decideremo. È stato anche onesto fino in fondo, dice, a dire, perché anche è stato onesto fino in fondo, io lo rimprovero. In realtà ci sono decisioni che vanno maturate, vanno prese. Ma come lo rimprovera? Cioè, era meglio dicesse un po', coprisse con una menzogna dicendo no. probabilmente, voglio dire, secondo una vecchia tradizione marxista, avrebbe dovuto dire no, per ora non facciamo niente, poi fra un anno avrebbe detto guardate, non riusciamo più a stare sui mercati a questi costi di energia, fra 20 anni non saremo più un paese industriale, se continuiamo così e ci impoveriremo, e rispolverava a questo. Berlusconi marxista effettivamente non me lo vedo. Senta, un'altra frase appunto su Berlusconi che lei ha detto in un'intervista, è come un fanciullo di 3 anni Berlusconi, che vuol dire? Io parlavamo, guarda, poi voi riportare. Io leggo la sua risposta. Una persona che ha una grande capacità di rapportarsi agli altri, e è stato visto, nella psicologia si vede che il ragazzo di 3 anni si chiama il professore per la sua capacità di agire al meglio le relazioni personali, cioè a 3-4 anni una persona è capace di agire le relazioni personali molto meglio di come lo faccia a 40-50 anni, cioè come far ruotare il mondo intorno a se stesso. Io ho detto questo, poi ho detto anche una persona che ha un grande entusiasmo, grande passione, anche una grande vitalità. E questo. Quindi ricordava un fanciullo di 3 anni per la capacità di far ruotare il mondo attorno a se stesso, la capacità decisionale. Insomma. Senta, per concludere, c'è il caso Scilipoti che è tra i responsabili. Lei che ne pensa? Perché dice mi chiamano Munnizza in Parlamento, minacce di morte. Scilipoti è un grande... Cioè, voglio dire, Scilipoti innanzitutto è uno che si è fatto solo, viene figlio di proletari, ha studiato e lavorato insieme. E va bene, però per molti italiani è l'emblema proprio del voltagabbana, del traditore, di quello che... No? Lui c'è una sua coerenza, cioè lui per esempio anche sulla guerra, anche sul nucleare, prende posizioni assolutamente eterodosse, cioè personali, cioè perché lui è una persona che ha un suo progetto e continua a portarlo avanti, indipendentemente poi se sta con che sta con i responsabili o meno. E questo perché è una persona fondamentalmente onesta, non obbedisce al lobby, no, è un grossissimo, è il più produttivo fra i parlamentari. Capito, però è stato eletto in un partito e il giorno prima della fiducia ha votato per un altro, insomma. E ce n'erano 25 stati eletti col centro-destra, fra cui il presidente della Camera, che volevano mandare a casa il presidente del Consiglio con cui erano stati eletti. Dice, quindi, questi sono, sembra che siano i benefattori dell'umanità. Cioè, voglio dire, Scilipoti ha continuato a far governare colui che era stato scelto dagli italiani legittimamente. Cioè, per concludere, fare il colpo di Stato. Per concludere, onorevole Sardelli, 3-4 posti ha detto entro quanto, soprattutto se no che succede? Cioè siete pronti anche a dire se no facciamo cadere insomma il voto? Ma non esiste proprio, no. Questo non esiste. Non è un ricatto. Noi siamo responsabili per definizione, se no andiamo avanti e portiamo avanti il governo, non c'è problema. Va bene. Va bene. 3 o 4, 2 o 1 non cambia niente. Beh, adesso non abbassi troppo l'asticella. C'è l'ambizione e poi c'è la realtà. Non abbassi troppo l'asticella, se no poi dopo la prendo le parole. Ma questa poi è la realtà. Intanto la ringrazio onorevole, grazie per essere stato con noi. Luciano Sardelli è il capogruppo dei responsabili, iniziativa responsabile alla Camera, tra i protagonisti di questo rimpasto di governo. I giornali dicono ci sarà in settimana, vedremo. Ci fermiamo dopo la pubblicità. La Libia, è giusto bombardare? Che ne pensate? È il nostro sondaggio. 24 mattino. Allora, il tema del nostro sondaggio, la Libia, torniamo a parlare della situazione di quello che sta succedendo in Libia, al di là del Mediterraneo, anche la Libia bombarderà in Italia, questa scelta vi piace, una scelta giusta, è il tema del nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Che ne pensate? Votate su radio24.it, c'è da dire che per il momento prevalgono i no con il 68% su questa scelta, ma ne vogliamo discutere con, intanto la ritroviamo e la saluto, il sottosegretario agli esteri Stefania Craxi, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei. Voglio salutare anche la presidente di Emergency, Cecilia Strada, buongiorno, anche per lei un ritorno, buongiorno a Cecilia Strada. Buongiorno a voi. Credo posso salutare anche, sì, l'abbiamo trovato, i collegamenti sono non sempre facili con la Libia, ma l'abbiamo trovato, il vescovo di Tripoli Giovanni Innocenzo Martinelli. Monsignor Martinelli, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Intanto vorrei farle ascoltare che cosa ci dice l'onorevole sottosegretario agli esteri Stefania Craxi, perché onorevole Craxi, oggi su tutti i giornali, devo dire, non solo la Padania che titola in maniera molto dura Berlusconi si inginocchia a Parigi, ma guardi anche giornali, non so, sul Foglio, come lei sa, Ferrara la definisce una stolta guerra, mentre Feltri ieri su Libero ha definito un

perché quando sento parlare di bombe sulle città, bombe su Tripoli, l'Italia ha deciso di partecipare ai bombardamenti contro obiettivi mirati, batterie anticarro, carri armati, depositi di munizioni che saranno pianificati dalla NATO, che li indicherà di volta in volta. Quindi intanto vorrei per la precisazione. Però quando si lancia una bomba, lei sa che purtroppo si può fare anche un errore, purtroppo, sì, a volte, certo, quando si lancia una bomba, no? Certo, e dopo precisiamo intanto questo. L'altra questione è misurata, diceva Cecilia Strada, che tra l'altro hanno fatto e sono stati, credo, anche gli stati del Ministero degli Esteri un ottimo lavoro, ma i massacri misurata non sono stati non è stata mica la NATO a cominciarli. In altre città libiche i bambini, le mamme soffrono, ma soffrono perché Gheddafi ha cominciato a sparare contro la popolazione civile, a intraprendere un'azione di guerra contro il suo popolo. Quindi, ma su questo non c'è dubbio, cioè, voglio dire, se le stragi dei realisti continueranno indiscriminate, la NATO, che ha bisogno di più forza, ha chiesto più impegno all'Italia, e a questo non abbiamo risposto. Dopodiché mi dice: servono. Senta, nel momento in cui la comunità internazionale ha deciso questa azione di guerra per evitare un massacro, che queste rivolte finiscono nel sangue, sono rivolte comunque che hanno una forte carica liberatoria, bisogna finire velocemente, impedire velocemente che tutte le armi di Gheddafi continuino a sparare contro quel popolo. Monsignor Martinelli, cioè la posizione è questa: bisogna è Gheddafi, è il regime di Gheddafi, che capisco che la sua posizione magari è una posizione anche un po' delicata a parlarci da lì, ma bisogna intervenire perché Gheddafi ha stroncato nel sangue questa rivolta, insomma qualcosa bisogna fare. Questa è la posizione che ha spinto una parte dell'Occidente a intervenire in Libia. Ecco, questo è il principio che forse è discutibile. Innanzitutto è discutibile anche il fatto delle uccisioni. Si parla molto facilmente delle uccisioni fatte dal leader, ma forse è opportuno anche verificare quante uccisioni sono state fatte e se sono state fatte, perché lui ha avuto innanzitutto una ragione ben precisa, quella di stroncare il Qaeda, il fondamentalismo musulmano che era penetrato nella società libica. Detto questo, il secondo punto, dico, non ci sono altri mezzi per cercare di capire come si può eventualmente trovare una soluzione a questa realtà o questa ribellione, perché ci sono governi che pongono chiaramente in discussione tutto questo e propongono un dialogo per cercare di approfondire personalmente e dignitosamente, ecco, quello che l'Europa sta facendo con la forza. Però mi colpisce, lei, Monsignor Martinelli, dice che Gheddafi è intervenuto perché voleva stroncare Al-Qaeda in Libia, cioè questa è la motivazione del suo intervento, perché insomma, è una visione un po' diversa da quella che ci pone l'opinione pubblica occidentale. Chiaramente l'opinione pubblica è il Jazeera, e quindi il Jazeera non è che sia la verità assoluta, perché di fatto... No, ma anche tutti i giornali, insomma, i giornalisti che sono lì, europei, italiani... Tutti attingono da Jazeera. No, quelli perché che sono lì... Perché direttamente qui sul posto non ci sono altre forze verificabili. Beh, non a Tripoli, ma a Misurata, a Ras Lanufa, cioè a Bengasi, ci sono, insomma, tutti i giornalisti sta raccontando... Ci saranno anche qualche infiltrazione d'Al-Qaeda, ma lei dice è un movimento ispirato da Al-Qaeda, quello che sta cercando di sconfiggere. No, dico non tutto, però ci sono sicuramente forze dell'Al-Qaeda che hanno condizionato il capo a prendere posizione abbastanza netta, ma io non discuto le altre situazioni, ma quello che voglio dire, la soluzione non è quella delle bombe, la soluzione potrebbe essere proprio quella diplomatica, e nessuno ha tentato di fare e di avere una possibile soluzione diplomatica per cercare di capire come si può risolvere il problema. E andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi ripartiamo. Siamo con il sottosegretario agli esteri Stefania Craxi, Cecilia Strada, presidente dell'Emergency, e Monsignor Martinelli, il vescovo di Tripoli, tra poco. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, per Stefania Craxi avrei due domande strettamente politiche. La prima, lei dice, è vero, si è votata questa risoluzione, l'ha votata anche la Lega, però il caso politico ora c'è, cioè Bossi ha fatto titolare la prima pagina della Padania: Berlusconi si inginocchia a Parigi, siamo una colonia francese, le guerre non si dichiarano così. Come se ne esce da questa situazione politica di conflitto, insomma, sì, è abbastanza evidente. Sì, intanto intanto mi lasci dire che questa guerra, una guerra di Gheddafi contro Al Qaeda, ha torto alla popolazione di Misurata, di Zentan, di altre città sotto assedio che resistono coraggiosamente e che hanno subito numerose perdite. Detto questo, indubbiamente ieri c'è stata una frattura politica su questa questione con la Lega. Io però so che la Lega è una forza politica responsabile e quindi io credo che questa sarà una frattura politica che rientrerà. D'altronde ricordo che, come lei ha detto, il Parlamento a grande maggioranza ha votato questa risoluzione. La risoluzione prevede esattamente questo, ovvero prevede tutte le azioni possibili per impedire, per proteggere la popolazione libica, ivi comprese bombardamenti mirati. La seconda domanda politica è questa: lei in un'intervista al Secolo XIX si è adombrata, mi pare di aver capito, anche se è un'intervista scritta, dicendo: io a questa domanda non rispondo perché è arbitraria. La domanda era questa: suo padre, Bettino Craxi, che con gli americani aveva avuto anche dei rapporti abbastanza conflittuali, vedi il caso Sigonella, che cosa avrebbe detto? Ci sarebbe stato così a dire: beh, insomma, se la NATO, l'America, gli Stati Uniti, la Francia ci chiedono questo, lo facciamo? Oppure scusi, a parte che le ripeto che io non posso rispondere cosa avrebbe detto. No, ma d'accordo, padre, però è l'interpretazione che io le contesto, perché questa richiesta ci sta venendo da un mese e mezzo a questa parte in modo reiterato in tutti gli incontri che abbiamo avuto dal Consiglio di Transizione Libica, non dalla NATO, non da Sarkozy. Quindi, ma non me li sono inventati io i titoli di giornali che dicono il signor Bruni. E mio padre ha aiutato in tutto il mondo i perseguitati dell'est e dell'ovest, quelli che hanno sofferto per la loro libertà, li ha sempre aiutati in tutti i modi possibili. Vabbè, cioè, è già una risposta questa che c'è dato rispetto a quella del Secolo che dice non rispondo. Vorrei chiedere a Cecilia Strada che ne pensa del pacifismo della Lega, se è un pacifismo di comodo, se è un pacifismo che vi fa piacere se non altro perché aiuta la causa, oppure siete su tutt'altra onda. Ma non credo che la causa venga aiutata da un pacifismo che ha corrente alternata e per lo più declinato in termini di becero razzismo. Peraltro io non credo che la Lega sia una forza responsabile. Penso che in un paese civile ministri di quel partito che si permettono di dire purtroppo per ora non possiamo sparare dovrebbero dimettersi in 12 secondi. Vorrei precisare quello che, rispetto a quanto diceva il sottosegretario, che il nostro intervento ha avuto il sostegno del Ministero degli Esteri italiano, e diciamo più il plauso che il sostegno, perché peraltro, come sa il sottosegretario, è oltre un anno che causa tagli alla cooperazione il Ministero degli Esteri non copre le spese previdenziali del personale in missione e non ci consente di avere l'aspettativa degli ospedali. Ma a parte questo, mi sembra che si continui a eludere la domanda. Certo che Gheddafi sta facendo un massacro a Misurata, ma finora l'intervento della NATO è servito a proteggere i civili a Misurata? Sì, no. La risposta è no. Beh, forse 200 feriti e 60 morti. Forse qualcuno dice ci vuole tempo, oppure ci vuole appunto un aumento dei bombardamenti, poi no, dei bombardamenti delle postazioni militari che possono poi uccidere i civili a Misurata. Questo, Cecilia Strada, potrebbe essere mi metto un attimo nei panni dei generali che dovranno decidere questa cosa o no? Strada. Nei centri abitati, e nei centri abitati non si riesce a intervenire ovviamente con le bombe, quindi va cercata immediatamente un'altra soluzione che non può che essere negoziare il cessate il fuoco, ma la parola chiave è negoziare. E con chi si negozia? Certo che si negozia col nemico, non puoi che negoziare con il nemico, non negozi con gli amici. Negoziare, Monsignor Martinelli, sa che molti ascoltatori ci scrivono anche messaggi e l'accusano, se posso permettere, io giro questa accusa, l'accusano un po' di essere sempre molto vicino e connivente, quasi ha definito Gheddafi il capo, insomma molto molto vicino a quello che viene definito, no, il regime libico. Ecco, guardi, è possibile che ci sia una forma di accusa se non si vive nel paese. Io che vivo e convivo un pochettino con una popolazione che soffre, che assolutamente non ne vuole sapere di bombe e che in qualche modo adesso finisce, io constato tanta gente che dice: ma perché la guerra? Tutto sommato possiamo anche stare qui. Beh, ma nessuno, 40 nessuno anni, vuole la possiamo continuare ad essere, ecco, ma nessuno vuole la guerra, senza la guerra. Monsignore, nessuno vuole la guerra. È chiaro che la popolazione civile non ama la guerra, non ama le bombe, non vuole. Però forse la popolazione civile dovrebbe anche dire: però non vorremmo neanche questo regime, insomma, dove delle libertà sono. Non lo so se spetta a noi decidere queste cose o se piuttosto è meglio lasciar decidere alla popolazione stessa, perché possono possano prendere responsabilmente anche un cammino che sembra più conveniente, perché io so che accanto a lui ci sono persone e famiglie che stanno discutendo e stanno programmando, proponendo, e poi c'è anche l'unione anche a Addis Abeba, e poi c'è quest'altro. Ma che cosa stanno proponendo? C'è una via d'uscita? C'è una via, un futuro? Sono delle possibilità di discussione da una parte e dall'altra. Quindi non è che siano chiusi, non è che siano assolutamente per lui, ma davanti a questa situazione inevitabilmente si trova una via, si vuole trovare una via di dialogo, perché nessuno vuole la guerra. Lo so, ma forse giunti a questo punto il dialogo, non so, se, sottosegretario Craxi, il dialogo è possibile? Mi sembra che ormai ci sia un'alternativa, o Gheddafi, cioè non c'è più una Libia nel futuro con Gheddafi, no? Voglio dire, che dialogo si può fare ormai se non si è fatto per 30 anni o se si è fatto in modo sbagliato? Tra l'altro questa risoluzione dell'ONU, lei sa perfettamente, è stata approvata anche dalla Lega Araba ed è credo la prima volta che questo succede. Sì, ma qualcuno dice si è andati proprio, oltre poi a quella risoluzione, l'accusa è questa. Non si è andati oltre, dà piena legittimità all'azione che si sta svolgendo. Detto questo, non solo noi, ma anche gli arabi nel loro complesso, la loro rappresentanza, la Lega Araba, ritiene che dopo le sanzioni Gheddafi e il suo regime hanno perso ogni legittimità e quindi deve andarsene. È vero che il popolo libico deve avere il proprio destino nelle sue mani, però deve avere la possibilità di impegnarsi in un processo politico guidato dagli stessi libici nel rispetto del principio di sovranità e di unità nazionale. Guai se la Libia si spaccasse in due, così proprio come stabilito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Monsignor Martinelli, per concludere, io ho 30 secondi, ma lei ci può confermare, secondo lei a Misurata è caduta la linea? Come Monsignor Martinelli, è caduta la linea proprio sul finale. Vabbè, insomma, no, volevo chiedere se secondo la Misurata ci sono stati o no dei massacri da parte delle forze di Gheddafi nei confronti della popolazione civile. Ma rimane questa domanda. Intanto io allora mi fermo qui, ringraziando il sottosegretario agli esteri Stefania Craxi, Monsignor Giovanni Martinelli da Tripoli e Cecilia Strada, presidente di Emergency. Detto che il 68% degli ascoltatori ancora dice, e votate su radio24.it, no, non ci piace l'idea di un bombardamento, di bombe sulla Libia. Vedremo se oggi, pare, ci sarà un nuovo vertice Berlusconi-Boss, insomma, cercare di ricomporre questa frattura politica. Continuate anche su Facebook, sul nostro 24 mattino, sulla nostra pagina, nella discussione, a dire le vostre, a diventare sempre più amici, ovviamente. E che dire, devo ringraziare in redazione, certo, come sempre, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Peter Bescape l'Alpino in regia. E allora, dando la linea a Oscar Giannino, noi ci sentiamo domattina. Potete anche scriverci alla nostra mail 24 mattino @radio24.it. A domani alle 7:20.